Per l'approfondimento di oggi abbiamo deciso di parlarvi di un evento che si terrà tra pochissimo e soprattutto è un evento che si tiene qua nei dintorni, legato a delle realtà molto importanti del territorio a cui noi teniamo molto. Stiamo parlando di Festivalto, che si terrà l'1, 2 e 3 di luglio, quindi preparatevi già a fine giugno ad andare a Montesole al fresco, perché finalmente si sta bene, e abbiamo deciso di intervistare Angelo, che ci racconterà un po' tutta la programmazione di Festivalto. Benvenuto Angelo. Buongiorno, buongiorno. Intanto ne approfittiamo per farti gli auguri, che abbiamo saputo che hai compiuto gli anni ieri, quindi auguri. Abbiamo scavallato, grazie. Beh, festeggerai immagino a Festivalto, manca pochissimo. Sì, assolutamente, c'è quell'adrenalina da esame di maturità proprio. Beh, tra l'altro è anche una prima edizione, quindi immagino che la carica sia anche tanta, perché nasce come evento che per la prima volta si tiene, no, come festival di 3 giorni a Montesole, e che racchiude non solamente musica, se non sbaglio. Sì, guarda, nasce innanzitutto dopo una bella notizia per noi dell'associazione di Ozono, di Binario, insomma del collettivo, che è quella che abbiamo firmato ufficialmente per 9 anni la gestione del Poggiolo di Montesole, che è questo centro visite nel cuore del parco regionale storico di Montesole, e arriva proprio per invogliare il pubblico, oltre che a sostenere il progetto, anche a conoscere tutta una zona che è molto importante per i valori che racchiude, insomma, per il simbolo che rappresenta. Tra l'altro è una festa orientata, diciamo, a un pubblico abbastanza ampio, perché le iniziative che ci saranno in questi 3 giorni non sono solo per un pubblico adulto, diciamo, no? Non sono solo concerti serali, ma anche durante la giornata ci saranno vari appuntamenti. Ci racconti un po' meglio di cosa si tratta? Guarda, provo a essere sintetico. In realtà Festivalto è il momento di celebrazione di un percorso didattico che abbiamo realizzato sulle scuole dell'Appennino tosco-emiliano, quindi sia in Toscana che in Emilia Romagna, dedicato soprattutto agli ultimi anni delle superiori, su 3 argomenti che poi erano ambiente, memoria e cittadinanza attiva. E quindi nei 3 giorni andiamo a fare, oltre che un campus residenziale per i ragazzi selezionati delle scuole, andiamo a fare anche delle tavole aperte e dei laboratori aperti che parlano di, appunto, riciclo, riuso, transizione energetica. Abbiamo un laboratorio sulla mobilità sostenibile, tavole rotonde di confronto sulla resistenza culturale di questi anni, abbiamo appunto i luoghi della memoria, il racconto annesso, insomma abbiamo diverse iniziative. In tutto ciò, tra l'altro, ospitiamo la carovana di Youth, che è il primo forum giovani dell'Emilia Romagna, quindi insomma saranno 3 giorni densissimi per gente che si sveglia al mattino, ma anche per gente curiosa, ecco. Noi infatti saremo lì a presidiare tutti e 3 i giorni per raccontarli, anche perché effettivamente, diciamo, davvero questa programmazione è molto ricca. Adesso un po' di realtà le hai già citate, no, raccontandoci qual è la programmazione, ma oltre a voi appunto ci sono tante altre realtà del territorio che partecipano alla creazione di Festivalto, e poi immagino anche poi nel percorso che vi accompagnerà in questi anni. Ti va di dirci quali sono? Sì, innanzitutto abbiamo una serie di attori istituzionali che ci ospitano e ci sostengono, primo fra tutti il padrone di casa, che è appunto l'ente parco Emilia Orientale, e l'amministrazione di Marzabotto. Poi c'è la Fondazione Scuola di Pace, il Comitato Onoranze, abbiamo insomma diversi partner istituzionali, e poi ci sono tutti i partner artistici, quindi c'è questa collaborazione nata con la Limonaia Club di Fucecchio, che ci ha un po' coadiuvato nella direzione artistica, oltre che poi tutti i partner, e sono veramente tantissimi. Adesso ti dico Legambiente, Medici Senza Frontiere, dovrei farvi perdere una mezz'ora per tutti i partner che abbiamo, Keep On Live, Piedas, per nomi più. Quindi tante realtà anche molto distanti tra loro normalmente, mi immagino, perché chi si occupa di musica, ma anche chi si occupa di ambiente, no? È un po' coinvolto tutto, come appunto in questi 3 giorni sarà, perché come ci raccontavi ci sono laboratori, ma c'è anche tanta musica, e tra l'altro anche dei nomi molto molto importanti, perché ad esempio c'è Marky Ramone, ci sono gli Espagna Circo Este. La scelta musicale come l'avete fatta? Guarda, come ti dicevo, è stata collettiva, nel senso che oltre che i nostri ragazzi della direzione del Binario, ci siamo confrontati con i ragazzi appunto della Limonaia, ed è stato, diciamo, un mix di esperienze. Quindi da un lato si porta avanti un po' l'anima di promozione di progetti alternativi del Binario, e dall'altro tutta l'esperienza invece nell'ambito dell'organizzazione di grandi festival, che è quella della Limonaia. pandemia, e quindi ne è uscita una line-up diciamo inedita, nel senso che si presenta anche grandi nomi, quindi Marchi Ramone, ma penso anche a Shingai, il progetto di Studio Murena, dall'altro presenta poi tutta una serie di progetti appetitosi che piacciono a noi del binario, e quindi nuove produzioni. Mi vengono in mente i giovanissimi Gomma o la produzione Made in Locomotive di Corobu, Francesco Lettieri, Rizza Valloni, i Saracca dalla Svizzera, insomma, come sempre avrò dimenticato un sacco di nomi, ma ce n'è per tutti davvero. Ricordiamo poi tra l'altro che per avere tutte le informazioni e la lineup completa è possibile guardare i vostri social, quindi ci sono tutti i riferimenti necessari, poi anche noi ovviamente ne parleremo sul sito di Radio Città Fujiko e sul sito di Festivals Backpack. Quindi io ti chiederei anche qual è la possibilità per rimanere lì per questi 3 giorni, come arrivare, se è necessario prenotarsi, insomma come orientarsi per vivere al meglio questa realtà. Certo, beh guarda, innanzitutto il primo consiglio è quello di partecipare dal primo giorno, nel senso che è strutturata su 3 giorni, ma è un percorso molto pensato e interessante. Si potrà stare a campeggiare liberamente in uno spazio insomma proprio dietro la struttura del poggiolo, e di fatto il campeggio è libero e gratuito. Su come arrivare ci sono appunto varie possibilità, la raccomandazione è quella sempre di, se si viene in macchina, di riempire la macchina innanzitutto, quindi usare anche i social per mettersi d'accordo, per dare dei passaggi, via dicendo, e siamo sempre comunque dentro un parco regionale, quindi è importante dare il meno impatto possibile sulla natura. E poi c'è il treno di fatto arriva praticamente ogni ora e a volte ogni mezz'ora. Il mio consiglio poi è quello di fare la camminata, di meritarsi il festival, ecco, salire sono una quarantina di minuti a piedi, sia dal cammino del postino che quello invece classico lungo la strada che arriva fino alla struttura, altrimenti a breve faremo uscire anche gli orari del servizio navetta. Perfetto, quindi tutto ben organizzato. Assolutamente. Anche noi consigliamo la camminata, perché comunque poi si sta in mezzo alla natura e si sta molto bene. Io ti ringrazio molto per averci dato tutte le informazioni. Ti chiederei se hai qualcos'altro che vuoi raccontare riguardo Festivalto, o un messaggio che vuoi mandare alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori per invitarli, insomma, a raggiungervi al poggiolo. Guarda, il mio pensiero in realtà è quello del primo anno. Tu lo sai meglio di me che i festival, poi la speranza è sempre quella di portarli avanti negli anni, ma l'anno a cui ci si appassiona di più è il primo, che è quello anche degli errori, dei rischi, dell'adrenalina. Secondo me quest'anno è importante esserci, perché il primo non si scorda mai, e per il resto niente, venite soprattutto a scoprire Montesole, che è un luogo preziosissimo non solo per noi bolognesi o bolognesi acquisiti, ma veramente per tutto il mondo. Allora ti ringraziamo moltissimo per averci raccontato questo evento, e vi ricordiamo di andare tutti a Festivalto. Grazie.